Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti da Giulia Crivelli alla nostra rassegna stampa europea. Oggi partiamo dalle elezioni, ma non dalle elezioni europee, però da elezioni che si svolgeranno il 25 maggio, cioè come le nostre, domenica prossima. Le elezioni di cui parlo sono le presidenziali dell'Ucraina e di cui ha parlato anche Financial Times questa settimana, perché queste elezioni sono molto delicate. Sappiamo tutto quello che sta succedendo in Ucraina, i due referendum, quello per l'indipendenza della Crimea e poi per la regione di Donetsk, e tutto quello che la Russia sta facendo per aumentare la sua influenza nel paese. Ora, secondo Financial Times, gli Stati Uniti starebbero studiando delle sanzioni da applicare alla Russia, ma sarebbero sanzioni un po' sospese, e si aspetterebbe il risultato di queste elezioni, o meglio, il risultato di quello che diranno gli osservatori di queste elezioni. La Russia tenterà, questo è sicuro, di influenzare in qualche modo l'esito di queste presidenziali dell'Ucraina, che ha in questo momento un presidente ad interim, e poi per probabilmente aumentare ulteriormente le pressioni per avere sempre più territorio ucraino. Ma questa è una crisi molto complessa, che ha un aspetto storico, perché in Ucraina c'è una popolazione filorussa e che parla russo, ma ha anche molti aspetti economici, e da qui l'idea di imporre sanzioni economiche alla Russia. Secondo Financial Times, tra i paesi più contrari potrebbe esserci proprio il nostro, che l'Italia è ancora membro del G7, quindi voce in capitolo ce l'avrà. Lo ammette anche Financial Times, perché noi, lo sappiamo, abbiamo dei legami commerciali con la Russia molto forti, e soprattutto per noi l'energia che compriamo dalla Russia, magari passa dall'Ucraina, è preziosa. Quindi imporre o rompere i rapporti commerciali con la Russia o complicarli per l'Italia non sarebbe certo una buona notizia. Siamo in estate, si può rimandare la questione, perché naturalmente il gas è legato alla stagione fredda, al riscaldamento soprattutto, si può rimandare la questione, ma la questione poi si ripropone. Sempre a proposito di scandali italiani, sempre a proposito di Italia, scusatemi, Financial Times si occupa della nuova Tangentopoli, così la definisce, perché è impossibile anche per un giornale straniero non fare il parallelo tra quello che successe 20 anni fa con Mani Pulite e quello che sta succedendo adesso con le vicende di corruzione che stanno emergendo intorno al grande evento di Expo 2015, per il quale manca praticamente un anno, perché Expo 2015 dovrebbe aprire il 31 di maggio dell'anno prossimo, e uso il condizionale perché in tanti dicono che a questo punto forse bisognerebbe fermare i cantieri del tutto. In tantissimi altri, e probabilmente questi saranno quelli che prevarranno, pensano invece che si debbano fermare i ladri, che poi sono anche parole del premier Renzi, e non i lavori. In ogni caso, appunto, manca un anno, a distanza di un anno dall'apertura di Expo si sono scoperti questi scandali, che secondo Financial Times sono la vera primavera sfida per Matteo Renzi, che viene ricordato è il più giovane premier della storia d'Italia, ha fatto grandissime promesse di riformare questo paese dal profondo, e ora si ritrova con protagonisti degli scandali gli stessi personaggi più o meno di 20 anni fa. E allora, scrive Financial Times, le elezioni europee, e qui torniamo alle elezioni, ma queste sono veramente le nostre elezioni, che sono il 25 maggio come le presidenziali ucraine, ma sono fatte per rinnovare il Parlamento europeo, vedranno contrapposti Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, il Movimento 5 Stelle guidato da un comico attivista, così lo definisce Financial Times, cioè Beppe Grillo, e il Partito Democratico guidato da un primo ministro non eletto. E queste elezioni potrebbero fornire, conclude tristemente per noi Financial Times, un'ulteriore dimostrazione del fatto che l'Italia non è un paese normale. Passiamo invece a Euronews, che parla sempre di elezioni europee, quella è la prospettiva, è il banco di prova di tante cose che sono successe negli ultimi 5 anni, focalizzandosi però sui dati economici dell'Unione Europea, perché sappiamo quanto, e forse molto più che in passato, l'andamento economico degli ultimi 5 anni influenzerà il voto di tutti noi, e soprattutto dei paesi che magari hanno sofferto di più per le misure di austerità. E cerca quindi di infondere un po' di ottimismo anche anche se difficile contrastare invece tutti l'euroscetticismo che viene legato, che parte dai dati economici ed è stato diffuso nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, e quindi Euronews parla di queste riforme che sono state messe in campo dall'Unione Europea per salvare il sistema finanziario e bancario durante la fase più acuta della crisi e spiega come a medio termine porteranno una maggiore stabilità e ridurranno la possibilità di nuove crisi in futuro. Tutto vero, però sappiamo che purtroppo a volte gli elettori, tutti noi, anche io, non votiamo pensando a quanti vantaggi avremo nel medio e lungo termine, ma votiamo pensando a quello che ci è successo negli ultimi anni, a quello che abbiamo paura ci succeda a breve termine. E quindi Euronews riporta le dichiarazioni del commissario UE al mercato interno Michel Barnier, che ha tracciato questo bilancio positivo spiegando che ci sono molte sinergie positive fra le nuove regole che si complementano e si rafforzano a vicenda. Cerchiamo di ascoltarlo perché sicuramente i dati economici ci sono, però ripeto, poi purtroppo votiamo tutti anche un po' con la pancia. E a proposito di voto, abbiamo parlato di Movimento 5 Stelle, Euronews e Poll Watch e moltissimi altri organi di informazione europee si domandano dove si collocherà il Movimento 5 Stelle. Sapete che una volta entrati in Parlamento bisogna scegliere un gruppo di appartenenza e allora ci si chiede in quale gruppo siederanno i deputati del Movimento 5 Stelle nel prossimo Parlamento. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile avvicinamento al gruppo dei Verdi, che ha però un'impostazione spiccatamente pro Unione Europea, mentre sapete che Beppe Grillo, anche se ha smesso di dire che bisogna uscire dall'euro, resta comunque molto euroscettico. E quindi, secondo un'analisi di Vote Watch, per esempio, è più verosimile che il Movimento 5 Stelle si allei con l'UKIP di quel Nigel Farage, di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse, che è il leader del partito euroscettico più aggressivo della Gran Bretagna, dove di fatto i grillini prenderebbero il posto della Lega Nord. Ma torniamo un pochino alle vicende di casa nostra, che comunque sono sorvegliate speciali anche non soltanto dall'Unione Europea ma dai singoli paesi. Siamo anche un po' un laboratorio, forse potremmo essere un laboratorio. Nelle settimane scorse avevamo visto come per esempio in Francia si tentasse un parallelo tra il nuovo premier francese e il premier Renzi, due figure che volevano rompere con il passato. Ecco allora l'Opinion, una rivista francese, che spiega come per esempio la riforma della funzione pubblica voluta da Matteo Renzi potrebbe portare a un conflitto con i sindacati, un conflitto che magari in Francia e in altri paesi europei è già stato vissuto, è già stato superato, ma che invece in Italia dobbiamo ancora affrontare. Un nodo, quello della riforma del sistema pubblico, della pubblica amministrazione, sia quello della riforma dei sindacati e del loro rapporto con la pubblica amministrazione, che potrebbe in effetti essere una delle grandi difficoltà del premier Renzi per i prossimi anni, scrive l'Opinion, per i prossimi anni se verrà rieletto, per i prossimi mesi. In effetti i sindacati italiani non hanno voluto adeguarsi all'evoluzione del mercato del lavoro e continuano a rappresentare gli impiegati e i pensionati, perdendo il contatto con i giovani e i precari, che li vedono come difensori di privilegi acquisiti. Passiamo a un altro paese di cui purtroppo non ci occupiamo tanto, anche perché è difficile leggere in originale i loro media, ed è la Romania con Bucarest. E qui c'è un intervento del direttore del settimanale di Lema Vece, che potete leggere sul sito di Internazionale, dove finalmente una buona notizia, si sostiene che in Romania, secondo i sondaggi, la maggioranza dei cittadini si fida più delle istituzioni europee che di quelle nazionali. Prima dell'adesione più dell'80% della popolazione era favorevole all'ingresso del paese nell'Unione Europea e si direbbe che la corrente filoeuropea, ci racconta appunto Mircea Vasilescu, direttore di questo settimanale romeno, sia ancora forte e attiva. E però deve aggiungere che la partecipazione al voto, perché anche la Romania voterà come tutti noi il 25 maggio prossimo, sarà molto bassa, il 20%, che persino per i nostri standard è bassissima, però da tener conto che la Romania è tutto sommato una democrazia giovane e soprattutto è poco che vota per le elezioni europee. Da parte mia posso solo augurarvi un felice sabato e augurarmi anche che andiate a votare in grande numero. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.